ci arriverò, lo sento. Serve ancora un po' di tempo, basta ancora un po' di tempo. Anzi, manda a piedi scalzi, spettinato curvo, aggrappato al mio silenzio, sotto l'arco di un convento. Forse arriverò redento. Autostrade siracciate, scarpinate lande, desolate cave, spiagge anche sotto giuramento. Conto di arrivarci a stento, assetato al suo delle campagne, pietra guzze, cieco appolto dai miei stracci, tutti i sogni nella mano. Ma ci arriverò lontano, già sull'orlo del precipizio, annaspando in un burrone zoppo, senza unghie e senza mento. Ma ci arriverò cadendo giù, con dolore col mio pianto, tra rassegnazione e scoramento. Ma ci arriverò d'incanto, non so dove e chissà quando. Piange torrenziali, fiumi in piena, poi macigni sulla schiena. Sento che vado affondando, ma ci arriverò nuotando e via. Contro mano e senso, chiudo gli occhi e vado, che se sbaglio poi mi pento. Giuro, prima o poi me da concerto, e anche se il teatro è spento già, che anche se sono sicuro alla fine di trovarmi innanzi un muro, non mi fermerò di certo, che sia voluta o deserto. Già, senza gioia e mai un lamento, stelle, penne d'oro e firmamento. Strada, strada, passo, passo, va a finire che mi scasso. Già, che se ormai sarò distrutto, anche a costo di dover rifare tutto, non mi arrenderò, lo sai, tanto intanto non si arriva mai.